9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 6 aprile 2010, buon ritorno alla normalità dopo questi giorni di pausa pasquale. E ho deciso, proprio pensando a chi lavora di più a Pasqua e Pasquetta, di cominciare la settimana, i nostri appuntamenti, focalizzandoci ancora una volta su una questione su cui alcuni ritengono che io picchi un po' troppo spesso, cioè la scarsa attenzione che noi diamo in termini di leggi, di organizzazioni concrete e di testa alla componente di genere, cioè le donne in tanti aspetti, ma innanzitutto in quella del lavoro. Ce ne siamo occupati più volte sotto diversi punti di vista, e oggi, pensando al fatto che appunto nel giorno di Pasqua e Pasquetta, come sempre, era la componente del lavoro femminile, quella che non si vede in famiglia, che non si vede poi nei conti pubblici nazionali, a essere sicuramente la più rilevante dal punto di vista del lavoro in questi giorni di feste, ho deciso di fare una puntata su questo aspetto. Vedremo poi con le nostre ospiti quali sono le esperienze concrete, più o meno, soprattutto meno allegre, di cui parleremo con loro. Ma intanto, come al solito, volevo darvi qualche cifra per capire qual è il rilievo vero di questa, di questo aspetto del lavoro femminile non messo in grado di esprimere, sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista della concretezza, tutte le proprie possibilità. Perché questo aspetto non è rilevante solo per la mentalità, per la storia delle idee, cioè per la questione della parità, che pure è fondamentale, ovviamente, ma soprattutto esercita delle conseguenze che sono negative sotto una pluralità di punti di vista. Pensate che quanto siamo lontani, siamo rimasti lontani dagli obiettivi che l'Europa si era data a Lisbona per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Si era detto all'epoca, stiamo oramai parlando di 11 anni fa, che il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 65 anni avrebbe dovuto raggiungere il 60%. È un livello che è quasi sfiorato in realtà dalla media oggi dell'Unione Europea a 15. In Italia siamo, nel 2008, eravamo rispetto a questo 60% di obiettivo, per quest'anno al 47,2. Sì, certo, abbiamo guadagnato 11 punti rispetto al 93, però rendetevi conto che siamo 13 punti di distacco. E qual è questo ostacolo maggiore per le donne nel lavoro? È ancora l'impegno familiare l'ostacolo maggiore, perché tra le giovani che hanno tra 35 e 44 anni le donne non sposate hanno tassi di occupazione più alti, cioè sono l'87%. Le donne che sono in coppia ma non hanno figli lavorano al 72%, quelle che vivono in coppia ma con figli al 52%, e tra queste, cioè tra quelle che vivono in coppia con figli, il tasso di occupazione diventa tanto minore quanto maggiore è il numero dei figli, cioè 64% con un figlio solo, 36% per chi ne ha tre o più. Questi sono dati Istat. Quindi, oltretutto, c'è naturalmente un forte coefficiente di differenziazione tra il nord e il sud, perché l'abbandono del lavoro avviene in un caso su 6 in Italia, secondo gli ultimi dati dell'Istat, per le madri che stanno nel centro nord, avviene una volta su 4 per quelle che vivono nel mezzogiorno. È correlato naturalmente l'abbandono del lavoro in caso di maternità anche all'istruzione, ovviamente alla formazione del capitale umano, cioè lasciano o perdono il lavoro una madre su 3 tra quelle che hanno al massimo una licenza media, per le laureate diventa una madre su 13. Questi sono dati Istat recentissimi. Naturalmente questo non significa che poi non perdano delle qualifiche, delle mansioni, che non vengano quindi al momento del ritorno, quando laureate, fatte oggetto di campagne, per così dire, di attenzione che le portano a portare poi dopo a decidere di abbandonare. Però detto questo, dipende quindi, come vedete, non solo dal numero dei figli, non solo dal titolo di studio, non solo dalla geografia. Tutti questi gradienti rappresentano dei coefficienti che spingono le donne, a fronte di un impegno familiare, di un impegno di figli, a perdere punti e possibilità e partecipazione al mercato del lavoro. Naturalmente, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, oltre a ciò che si perde in prodotto e in produttività, c'è ciò che si perde anche in demografia del nostro paese. È notorio che noi siamo un paese che oramai da molti anni è adagiato su un tasso di 1,3-1,4 figli per donne, quando il tasso di riproduzione demografica è a 2,1, e con tutti gli evidenti problemi di sostenibilità intergenerazionale che una società di anziani, e che regge attualmente il suo equilibrio demografico esclusivamente per la componente degli immigrati, altrimenti saremmo già in contrazione fortissima, e anche una società in cui le famiglie si formano sempre più tardi e di figli ce ne sono sempre di meno. E la questione diventa, fine del pistolotto, naturalmente, cosa si può fare per tutto questo? Ci sono politiche attive. Certo, le politiche attive a favore della famiglia e a favore del lavoro femminile costano. Naturalmente si tratta di scelte da compiere, quindi, per riequilibrare il totale delle spese pubbliche a questo favore, invece che magari a favore ancora di un'integrazione molto forte della fiscalità generale per reggere la previdenza. Ma quello che è chiaro è che i dati comparati con gli altri paesi ci dimostrano che a crescere di più e ad avere una demografia più equilibrata sono esattamente quei paesi in cui le donne fanno figli, fanno più figli che da noi, perché sono più incentivate che da noi, le fanno più giovani che da noi, e non per questo non lavorano, anzi proprio per questo hanno dei diritti rafforzati a mantenere il proprio posto di lavoro, a non venire degradate quando rientrano e indotte a lasciarlo. Cioè, i paesi con una dote sociale più ricca sono quelli in cui le famiglie sono più si formano prima che da noi, ci sono più figli e le donne lavorano di più. Questi sono classici esempi di paesi, anche di modelli sociali e di integrazione pubblica del reddito molto diverso. Si va dalla statalista Francia ai paesi nordici come l'Islanda, la Norvegia e la Finlandia. Sono tutti paesi, quelli che vi ho citato, con un numero medio di figli per donna superiore al tasso di riproduzione, cioè tutti superiori al 2,1, noi, ripeto, siamo un terzo inferiore, e la spesa sociale per famiglia, che da noi sta intorno ai 4.000 euro, scusate, sta 1.600 euro l'anno per l'Italia in termini pro capiti, sto parlando di trasferimenti per famiglia e figlia per ogni minore di 18 anni, anche questi sono dati Istat relativi al 2007, se fate un paragone rispetto a questi 1.600 euro l'anno per famiglia e figli per ogni minore di 18 anni, Francia sono 4.400 euro, 9.000 in Danimarca. Allora, fine del mio pistolotto per andare a vedere che cosa si può fare rispetto a questa analisi generale. Sicuramente parlarne, ma la cosa migliore è parlarne in base alle esperienze concrete. Allora, abbiamo tre ospiti oggi. Iniziamo con Chiara Bisconti, che è direttore del personale del gruppo San Pellegrino, gruppo Nestlé. Buongiorno, dottoressa Bisconti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poi abbiamo Stefania Boleso, che è una ex manager del gruppo Red Bull Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Anna Zavarit, che è una giornalista, una collega, che oltre a aver lavorato per grandi gruppi di informazione economica, da Bloomberg al Sole 24 Ore, naturalmente, dove lavora, anima un blog che trovate annazavarit.blog.ilsole24ore.com su questi temi di genere, e soprattutto animatrice di un progetto di cui parleremo oggi, un progetto che si chiama Moms at Work. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti. Allora, io comincerei dal caso di cui abbiamo letto settimane fa, ma è il caso di riparlarne, cioè il caso di Stefania, che era marketing manager di Red Bull Italia, dopodiché maternità, dopodiché mobbing, cioè l'azienda non ha più bisogno di lei, dopodiché decisione di sì, di andarsene, c'è la buona uscita, però di sollevare il caso perché questo non avvenga. Allora Stefania, come siamo messi da questo punto di vista? I giornali hanno pubblicato, c'è stata solidarietà, che impressione ha avuto? Che cosa l'ha in realtà convinta a sollevare pubblicamente il suo caso? Ma allora, ho deciso di rendere pubblica la storia perché nei mesi in cui seguiti alle mie dimissioni ho incontrato parecchie donne che avevano vissuto la stessa situazione. Nelle situazioni più disparate, sia la signora che gestisce lo spazio gioco dove porto mia figlia, sia la signora che lavora al punto Vodafone. Per cui ho deciso di parlarne perché ho pensato, se qualcuno lancia il sasso, probabilmente, e quindi se qualcuno comincia a parlarne, poi probabilmente ci si rende conto che non è un problema del singolo, della singola donna, ma è un problema molto diffuso. Infatti così è stato. E le reazioni? Ma allora, le reazioni più disparate, nel senso che sono stata contattata privatamente da circa 300 illustri sconosciuti, e di cui circa un terzo erano donne che avevano vissuto la mia stessa situazione. Quindi ho avuto moltissime dimostrazioni di solidarietà, così come invece ci sono stati anche dei commenti non molto positivi all'articolo pubblicato sul Corriere Online. Commenti che in molti casi dicevano: beh, giusto, ha fatto un figlio, se ne deve stare a casa. Questo è un po' anche lo specchio dell'Italia, credo. Ma no, questo mi interessa molto. Cioè, questi commenti sono stati maggiori di quello che si aspettasse? No, in realtà nel momento in cui ho deciso di rendere pubblica la mia storia mi aspettavo qualunque tipo di commento. Devo dire, personalmente mi ha fatto molto piacere sapere che 300 benemeriti sconosciuti si sono presi la briga di contattarmi in Facebook piuttosto che in LinkedIn per dirmi: guarda, sono con te, piuttosto che per dirmi: guarda, sono una donna, anch'io sono stata nella stessa situazione, mi è successo questo, piuttosto che sono ancora adesso in questa situazione, ma purtroppo io non posso parlare, no, non posso denunciare, perché... Anche perché il racconto, cioè l'articolo sul portale del Corriere in un solo giorno aveva fatto 120.000 click, contatti, quindi insomma era una storia che ha attirato molta attenzione. Sì, e questo vuol dire che il problema è diffuso da una parte, e dall'altra che comunque anche chi non sta vivendo il problema in prima persona ha sentito il desiderio di dire la sua. Le ripeto, però non sempre positivamente. Ma mi interessa commenti... proprio questo secondo aspetto, cioè uomini e donne, più o meno percentuale approssimativa dei commenti negativi? Guardi, non li ho letti tutti, le dico la verità. So che ce n'erano parecchi e so che il tenore generale... Ah, per non amareggiarsi questo, per non amareggiarsi? Ma no, in realtà perché ero talmente subissata poi da richieste di persone che volevano mettersi in contatto con me, quelli privati di cui le ho scritto, ai quali mi sembrava giusto anche dare una risposta, piuttosto che televisioni, programmi televisivi che mi cercavano per andare a partecipare, eccetera, eccetera. Insomma, non sono stata a prendermi la briga di leggerli tutti. Comunque con calma lo farò, non si preoccupi. Io mi preoccupo perché io di solito dalle critiche ho più stimolo di coloro che mi fanno i complimenti. Per esempio, adesso abbiamo già una bella batteria di reazioni sugli SMS che dicono: ah, i paesi che hai citato che danno più sostegno alle donne che devono lavorare di più e per i loro figli sono quelli con la pressione fiscale più elevata. A noi va bene, ma a te no. Falso. Tra quelli che vi ho citato ci sono molti paesi che hanno la pressione fiscale più bassa, e io vi ho parlato della necessità di riequilibrare tra le voci di spesa. Quindi questa storia che voi siete sempre protesi a dire viva le tasse, più tasse, pensando che sia la vostra maniera di fare tra virgolette giustizia sociale, e che su questo ci sia una specie di contrapposizione tra i cattivi di destra come me che vogliono meno tasse e i buoni invece che vogliono più tasse e che pensano che per far lavorare di più le donne, per sostenere di più le politiche familiari, ci vogliano più tasse, c'è la differenza tra chi sa far girare i numeri e chi, perdonate, fa propaganda. Io ve lo dico a inizio di trasmissione, così iniziamo bene la settimana dopo la settimana di Pasqua, perché ripeto, riequilibrare le voci di spesa per avere una società più sostenibile, con maggior mobilità, è la priorità che si può fare prescindendo dal livello della pressione fiscale, perché questo ci dimostrano i modelli dei paesi che questo fanno, avendo una pressione fiscale su chi ha redditi reali minore della nostra. Allora, fatta questa premessa per far capire che io invece dalle polemiche prendo più stimolo che dai complimenti, andiamo a vedere chi tenta in questo su questo argomento di avere delle politiche innovative e con quali risultati. Cioè, chiediamo a Chiara Bisconti il gruppo San Pellegrino, che è considerato, credo più a ragione che a torto, uno dei gruppi più all'avanguardia in questo, come mai e quale tipo di politiche aziendali seguite per evitare che vi siano casi come quelli di Stefania? Beh, allora, intanto, come mai, ho ascoltato con piacere la sua introduzione, e lei ha ricollegato tutta la questione anche all'aspetto demografico, che secondo me è il grido di allarme più grande che l'Italia sta, insomma il pericolo più grande che sta correndo, e vedo poca consapevolezza su questo. Dal punto di vista aziendale ci sono molti indicatori, che forse lei ha citato prima, che dicono che anche l'azienda riesce a performare meglio grazie a un maggior numero di donne presenti all'interno della sua forza lavoro. Quindi... Però di solito, siccome nelle aziende ci sono soprattutto maschi in testa alle aziende, quando anche fosse vero, ed è vero, ne abbiamo già parlato una volta, e siccome il numero maggiore di maschi al comando, di cui ad arrendersi di fronte a una cosa che li spodesta, non è molto probabile che avvenga. Sì, però lei sa, lei in quanto uomo credo sappia che poi i maschi sono molto razionali, e quindi quando vedono che gli indicatori di borsa, gli azionisti iniziano a privilegiare dati concreti che sono veramente numerosi, mi fa piacere se avete già parlato, che dimostrano che veramente migliorano le performance aziendali, anche gli uomini poi tendono, quando si capisce che c'è dietro un discorso di business e non un'istanza sociale di fare del bene, ma c'è veramente alla fine dei numeri che favoriscono l'azienda, ci si rende conto che è una... Dottoressa Bisconti, le devo fare un complimento, perché lei ha detto razionali, quando invece bisogna parlare di convenienza, però evidentemente l'abitudine a indorare la pillola ai colleghi maschi gli ha dato dei razionali. Il problema è un altro. Abbiamo spesso parlato delle ricerche comparate che hanno reso evidente come all'interno dello spirito di team, nel team working, nella messa a fuoco, nella gestione delle risorse umane, nella motivazione delle squadre, e le manager femminili producono, secondo ricerche comparate, in diversi settori, ma comunque anche in generale risultati migliori. Quindi è una convenienza anche per il manager maschile. Ma in concreto che fate voi? Allora, in concreto la risposta, come solito, è molto semplice, poi farla accadere veramente invece merita un grande sforzo, necessita un grande sforzo, perché è un cambio culturale che si poggia sul fatto che le organizzazioni, per fare quello che stiamo dicendo, devono aprirsi e accettare un modello di lavoro che è quello femminile, che è leggermente diverso da quello maschile che ha dominato le organizzazioni fino ad oggi. Il modello di lavoro femminile è un modello basato totalmente sulla flessibilità e sulla ciclicità della vita professionale. Perché le donne portano questo come proprio loro istanza innata. Aprirsi a questo vuol dire appunto dotare l'azienda di tutte le possibilità di flessibilità del lavoro che oggi la tecnologia, grazie a Dio, garantisce in tutti i suoi aspetti, sia temporali che spaziali. E non intendere la progressione delle persone, quindi la loro carriera all'interno dell'azienda, come un continuum, una retta unica, ma delle fasi, dei cicli in cui una persona a un certo punto può dare di più all'azienda, poi può distaccarsi, poi può tornare, tenendo conto che un principio di fondo è che una persona completa, equilibrata, meno stressata è anche più produttiva. Anche qua parlo non per un concetto di fondo, per di voler bene alle persone, ma di nuovo dal punto di vista della produttività aziendale. Se si apre l'azienda a queste logiche, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dei mezzi, e quindi dotando le persone di PC portatili, introducendo orari flessibili, concedendo il part time, favorendo il telelavoro, questi sono proprio, diciamo, gli strumenti concreti che l'azienda può mettere in atto, la maternità, lei si rende conto che diventa un momento assolutamente gestibile, e quello che cerchiamo di fare noi è proprio passare questo messaggio di dire: consideriamo la maternità come un passaggio della carriera della persona, che può essere tranquillamente equiparabile a una persona che viene mandata a fare un progetto all'estero, che da noi è una cosa molto comune, per 6 mesi. Consideriamolo con la stessa logica, e quindi seguiamolo e gestiamolo con gli stessi strumenti. E noi consegniamo alla donna che viene a dichiarare che è incinta, e insieme alla propria responsabile, un documento che guida le due persone nei vari passi che vanno fatti. Quindi ad esempio prima che la persona vada in maternità, una chiusura degli obiettivi. Noi abbiamo un sistema forte di valutazione degli obiettivi e delle performance, quindi una valutazione degli obiettivi che la persona ha fatto, per non perdere il lavoro che la persona ha fatto fino, o i risultati che ha portato fino al momento prima. Va della bene, maternità. Ora la interrompo, che poi c'è un altro paio di aspetti almeno dell'organizzazione aziendale su cui mi interessa tornare. Chiedo a chi è in ascolto: vi è mai capitato di lavorare in imprese in cui alle giovani donne, quando facevano i colloqui, si chiedevano di firmare moduli in bianco per lettere di dimissioni in caso in cui fossero andate in maternità una volta contratto l'impegno per almeno X anni a non avere figli, dichiarando questa come punto di fondo del, tra le altre proprie diciamo CV al momento in cui si chiedeva il posto di lavoro? Sì, a me è capitato, ve lo dico esplicitamente, è capitato più di una volta nell'arco degli ultimi 25 anni, anzi, per essere sicuri, adesso le numero tra me 1, 2, 3, 4 posti diversi. Questo per dire, se vi è capitato qualcosa di simile, chiamateci anche per raccontarcelo. Eccoci tornati in studio. Tra le reazioni ci sono molti di ascoltatori maschi che dicono, per esempio alcuni, ma come, ci avevano fatto credere che se la donna lavorava fuori casa era meglio, invece siamo solo più poveri. No, direi proprio il contrario, siamo più poveri a far lavorare in media 3 volte qualche cosa quanto lavorano gli uomini a casa, senza che ci siano i conti, e invece a far lavorare nella contabilità nazionale, e invece a far lavorare molto meno laddove contribuiscono, potrebbero contribuire al proprio reddito, a quello della propria famiglia e a quello nazionale molto meglio. Quindi la mia opinione è che si tratti dell'esatto contrario. Abbiamo proprio visto come i paesi che crescono di più sono quelli che hanno una demografia e un'organizzazione del lavoro che induce a credere che le famiglie, formare le famiglie, avere dei figli sia non solo giusto e utile, cioè delle forme di investimento in capitale umano e capitale sociale che noi stiamo trascurando colpevolmente, ma sia anche ed è correlato a tassi di crescita maggiore, quindi pienamente compatibile con una maggiore partecipazione delle donne al lavoro. E noi invece sbagliamo su tutti i tre questi fronti. Chiedo ad Anna Zavarit, tu tra le tante cose che hai fatto, a un certo punto hai animato questo progetto, una specie di portale che serve a mettere insieme le iniziative e le esperienze delle donne, e mi dicono, ohimè, io colpevolmente ho visto il blog, ma il portale non l'ho aperto, che sia andato oltre le più rose aspettative, o no? Sì, questo progetto Moms at Work è cofinanziato, è stato messo a punto grazie a G-Group, che è il primo gruppo italiano di intermediazione del lavoro, ed è un progetto pilota che è partito dalla Lombardia. In realtà, da quando siamo, diciamo, usciti pubblicamente allo scoperto l'8 marzo in occasione della Festa della Donna, abbiamo ricevuto più di 2500 curricula di mamme in pochi giorni, e questo decisamente è un dato che non ci aspettava. Molti CV e molte testimonianze, di cui alcune sulla linea, diciamo, di quelle di Stefania Boleso. Ma arrivano anche testimonianze poi, per così dire, positive invece? Cioè, non voglio dire che dovunque, ovviamente, se no non ne avremmo parlato indicandolo come un esempio positivo, ci sia il modello del gruppo San Pellegrino Nestlé, ma di qualcuna che segnali, guarda che nella tale piccola azienda, eccetera, eccetera, non sono una manager, ma dico che le condizioni sono un pochino meno sfavorevoli che altrove? Allora, questa è un pochino la sfida del nostro progetto, e l'anima è proprio, come diceva prima Chiara Visconti, di dimostrare alle aziende che il problema dell'occupazione femminile e materna non è un'istanza sociale, ma è proprio un ragionamento di convenienza economica. Quindi noi per primi ci siamo attrivati per mettere sul sito tutti i casi di best practice, tra i quali chiaramente abbiamo recensito tra i primi quella della San Pellegrino. Alcune mamme ci hanno raccontato che, per esempio, sono state c'è un caso di una persona che è stata assunta mentre era al sesto mese di gravidanza, oppure la stessa mia partner e cofondatrice del progetto, Cecilia Spanu, che lavorava alla Kodak e che è stata promossa dopo la nascita del quarto figlio. Quindi qualche caso c'è. Ora, una domanda per Chiara Bisconti. Alcuni dei nostri ascoltatori stanno immediatamente mandando sms dicendo: beh, il discorso della dottoressa Bisconti va bene per i quadri e per le manager nei gruppi, naturalmente soprattutto medi, grandi, nelle multinazionali o nei gruppi italiani con organizzazione anche transnazionale, ma in realtà per le qualifiche più basse, per le operaie, difficilmente vanno bene, perché a quel punto non si tratta solo di rendere compatibile i cicli collegati alla maternità con la, tra virgolette, dice un nostro ascoltatore, la tenuta in caldo del posto, ma si tratta di avere un'organizzazione produttiva laddove la produttività è il primo, è la prima e unica richiesta che ti fa l'azienda, che se ne frega abbastanza del tuo capitale umano, compatibili con alternanze al lavoro anche medio-lunghe, che talvolta vedono l'organizzazione della produzione significativamente modificata nella piccola azienda dove lavoro io, dice un nostro ascoltatore. Come si risponde a questo? Allora, io rispondo dal punto di vista della grande azienda dicendo che ovviamente non è assolutamente vero. Le faccio un esempio: abbiamo due casi di telelavoro in questo momento e sono due posizioni operative, e anzi, proprio perché sono operative e quindi legate a un alto utilizzo del computer, possono lavorare da casa, fanno un telelavoro flessibile, quindi fanno qualche giorno da casa, qualche giorno in ufficio, e abbiamo dei dati che dimostrano che la performance di queste persone è migliorata col telelavoro, proprio perché nel telelavoro l'orario, il concetto di orario svanisce, e quindi loro riescono a lavorare la sera, di notte, quando vogliono, senza, ovviamente, in base alle loro esigenze, e migliora la produttività. Quindi non è assolutamente legato alla qualifica, anzi le dico che è più difficile portare avanti in azienda dal punto di vista delle dirigenti o dei quadri questo discorso, perché c'è invece un retaggio culturale, secondo me vecchio, che invece il manager deve essere più presente per una sorta di controllo, che è sbagliatissimo. Quindi dal punto di vista della qualifica non c'è alcuna correlazione con gli strumenti che si possono utilizzare. Sull'azienda piccola volevo dire un'altra cosa: siccome anche a me mi sento sempre dire ma voi siete grandi, io ho sentito invece dei casi in un convegno a cui ho partecipato poco tempo fa, di aziende piccole che con 8-10 persone, reinterpretando il modello del lavoro proprio sulla flessibilità, sono riusciti ad attingere dei fondi europei anche ingenti, per cui si sono pagati la persona che in quel caso andava in sostituzione di una maternità. E quindi, voglio dire, se ci si slega da un concetto veramente della rigidità del tempo del lavoro e si apre un po' di creatività anche, le assicuro che ci sono esempi virtuosi anche nel piccolo. No, questo, infatti, questa linea che lei ha appena citato, quella della richiesta e dell'accesso a sostegni europei, è una linea che può andar bene non solo per esigenze di organizzazione e integrazione dei cicli produttivi, quando il sostegno, per esempio, è quello della maternità e di un miglior utilizzo, insomma, della formazione del capitale umano, comprese queste esperienze. Ma ripeto, anche le piccole aziende che fossero interessate a esperienze di micro nidi offerti ai propri dipendenti possono trovare in questo accesso a sostegni e finanziamenti. Voi come siete organizzati per i nidi nel vostro gruppo, dottoressa Bisconti? Noi abbiamo il nido aziendale che funziona, ma è stato in realtà un esempio di risposta data senza analisi dei bisogni. Abbiamo deciso di fare il nido un po' di anni fa perché era un po' alla moda, mi permetto di dire. Invece poi, chiedendo alle donne, che ai genitori in questo caso, che è una cosa fondamentale, bisogna sempre indagare i bisogni. Perché era stato adottato come cosa senza chiedere ai dipendenti? E di un po' di anni fa, a un certo punto è stata la moda di dire: cosa facciamo per aiutare le mamme? Il nido. Allora, il nido è un'ottima risposta. Noi alla fine avevamo 5 iscritti su 1200 persone che abbiamo come gruppo in sede a Milano. Allora poi invece abbiamo chiesto e abbiamo capito che in realtà il bambino non è che a 3 anni si ferma e diventa di colpo autonomo, la gestione dei bambini va fino a 14 anni e c'è un problema annosissimo, che è quello della chiusura delle scuole quando gli uffici sono aperti. Li abbiamo contati, sono 90 giorni l'anno. Allora è partito un progetto che si chiama Progetto 90 giorni, che è attivo ormai da 6 mesi, dove noi teniamo l'ufficio aperto e invitiamo i ragazzi a venire in ufficio insieme ai genitori, adibendo delle stanze a loro con una società esterna che li gestisce. E quindi i genitori, quando la scuola è chiusa, è stato adesso per esempio per Pasqua e per le elezioni, portano i figli in ufficio con loro. E questo è un progetto che ha ovviamente alzato la motivazione e creato entusiasmo in azienda. Molto semplice anche questo da realizzare, se qualcuno volesse copiarlo. Molto molto semplice, e che risponde a un vero bisogno. Parentesi, io adesso dirò una cosa che fa inorridire molti altri in ascolto, l'Italia nell'abbassamento della produttività c'è anche un certo peso che deriva dal fatto che, come tutti gli altri paesi d'Europa continentale, ha avuto un abbassamento del numero di ore di lavoro e su questo la cattiva organizzazione sinergica dei cicli in famiglia scolastici dei figli rispetto ai tempi lavoro dei genitori, di cui questo è il classico esempio, contribuisce a spingere verso il basso le ore lavorate. Io so che molti ascolti e dicono: ma come, già lavoriamo troppo? Invece no, noi dovremmo abituarci all'idea di lavorare più minuti al giorno, più ore alla settimana, più settimane durante l'anno e più anni nel nostro arco vitale. Io considero che non sia una schiavitù, certo io poi lavoro in proprio e mi devo inventare come fare per pagare le tasse che odio, ma anche per i lavoratori dipendenti questo è la curva mentale in cui dobbiamo entrare per rendere i conti della nostra società più sostenibili per tutti e per tentare di accrescere il prodotto in maniera che ci sia più benessere per tutti. Sentiamo alcuni ascoltatori. Dunque, ci ha chiamato Paolo da Roma. Prego Paolo. Sì, buongiorno. Dunque, io vi ho chiamato perché io sono un ex direttore commerciale di un'azienda medio-grande, ho cominciato a fare l'agente di commercio perché stava arrivando una bambina e la mia priorità adesso è la mia famiglia. Beh, mi trovo veramente in problemi che mi stanno facendo, scusi il termine, di dare le palle a mille, perché mia moglie deve reinserirsi nel mercato del lavoro. Lei è un'educatrice qualificata, quindi non una cacciatrice di stipendi, una persona che sa quello che fa, è in grado di farlo, e non riesce a reinserirsi perché ha una figlia. Cioè la motivazione è perché hai una figlia, non perché che viene tirato in ballo. E mi sono reso conto che le politiche a favore della famiglia sono inesistenti. C'è un assegno di 1200 euro che forse ti daranno dopo un anno per il bambino, è finito quello, niente. Io ho girato il mondo, in Germania il figlio è sostenuto fino alla maggiore età, in qualunque tipo di coppia, indipendentemente dal reddito. In tutti i paesi d'Europa, quasi, tranne quelli barbari come l'Europa dell'Est, i figli sono seguiti. Perché? Perché i genitori devono lavorare, produrre e possibilmente farne altri per pagargli la pensione. Grazie Paolo. Non diciamo barbari ai paesi dell'Est Europa, che sono entrati in pochi anni, hanno avuto tassi di crescita, grazie anche a un fisco più basso, lo ripeto sempre con la mia solita polemica, assolutamente spettacolari e che stanno dando un grande contributo, pur nella loro crisi di stabilità finanziaria, però a un'idea di Europa meno centrale, entrata solo sulle esigenze tedesche. Ma al di là di questo, l'esempio della Germania è un altro esempio, oltre alla Francia, di paesi da avere bene in mente. Abbiamo parlato l'ultima volta che ci occupiamo di questo, delle politiche, dei cambi sostenuti in Germania proprio nel penultimo governo dal ministro della famiglia Unterweider, che è una signora che ha 7 figli, scelta apposta all'epoca da Angela Merkel nel governo di convergenza nazionale tra democristiani e socialisti. E abbiamo visto come l'aumento del congedo parentale per i maschi, l'aumento della parte di retribuzione legata al congedo parentale sono state due scelte precise della politica dei tedeschi, mentre a oggi la Francia resta imbattuta quanto a sostegno del sistema fiscale sulla famiglia e sui figli in famiglia, grazie all'idea del quoziente familiare. Ne abbiamo parlato più volte, sappiamo che nel nostro paese tutti temono che possa avere effetti sul gettito troppo larghi, troppo estesi, e mentre il gettito oggi tutti tendono a preservarlo, destra e sinistra, perché ovviamente bisogna evitare di entrare nella eurocrisi che ha attaccato e ha colpito Grecia, Irlanda e Spagna in questa settimana. Ora, sapevo che avrei fatto balzare molti di fronte all'idea che bisogna lavorare di più. Alcuni dicono: ma di che progresso parla questo ciarlatano di Giannino? Una società in cui si lavora 65 euro la settimana è l'800. Sì, peccato che nel nostro paese in media il lavoro dipendente si lavori 36 ore la settimana, 36, non 65, capite? E allora 36, va bene che in Francia sono 34, però non so che dirvi. Io l'idea che lavorare meno sia il grande progresso in una società nella quale noi abbiamo meno occupati degli altri, cresciamo meno degli altri, non mi pare che lavorare meno sia grande progresso, però ovviamente io rispetto l'idea di tutti gli scansafatiche del mondo. Basta che però non ci chiedano poi il sostegno pubblico. Invece il sostegno pubblico va concentrato in ciò che serve a crescere di più e rendere meglio sostenibile e più equa la nostra società. Su questa questione dell'occupazione femminile e dei tassi di natalità noi stiamo commettendo un errore di fondo, perché non solo rendiamo un torto gigantesco a principi che tutti dichiarano di condividere, credere nell'eguaglianza di genere e che sono fondamenti ovviamente di un paese democratico e libero, ma in realtà facciamo un danno economico non solo a milioni di individui nel nostro paese, non solo complichiamo la vita a centinaia di migliaia di bambini nel nostro paese, ma il danno è collettivo e complessivo, oltre a essere sconveniente, come abbiamo visto, per le stesse aziende. Sentiamo un'altra telefonata, che ci ha chiamato Denise da Como. Prego Denise. Sì, pronto. Buongiorno, mi sente? Sì, dica. Buongiorno, grazie per questo spazio. Ho telefonato perché, a parte che sono d'accordo con quello che lei ha appena detto, io sono infermiera e attualmente lavoro in Svizzera da circa 4 anni e mi tocca molto questo argomento perché sono quasi al termine della mia gravidanza, per cui in questo momento sono a casa perché ho avuto dei problemi e sono insomma in malattia prossima al parto. Comunque volevo dire questo, la mia esperienza in Svizzera è stata questa. Io lavoro per una piccola azienda privata. Posso interrompere la Denise senza permettermi di... Diciamo che non è in malattia. Aspetta, un figlio è in gravidanza, quindi non è in malattia. Ecco, perché se no associamo all'idea che fare un figlio significa essere malati. Di questo passo arriveremo all'idea di pensare che fare un figlio significa essere malati mentali e non so poi come finire. Comunque, mi scusi se l'ho interrotta. No, ha ragione, però diciamo che dal punto di vista pratico in questo momento io non sono in maternità ma sono in malattia. Perfetto. Per la Svizzera. Perfetto. Perché la maternità parte dal momento in cui nascerà il bambino. Benissimo, e lì come ha constatato? L'organizzazione è più proclive al sostegno o uguale o peggiore a quella italiana? Assolutamente peggiore, nel senso che comunque i mesi di maternità sono solo 4, per cui diciamo che la maggior parte delle persone se riesce a lavorare fino al 9° mese insomma bene, altrimenti l'alternativa è quella di mandare malattia e poi di far partire la maternità dal momento del parto. E diciamo che la tutela è sicuramente peggiore rispetto a quella italiana, perché comunque anche le strutture, gli asili nido sono pochissimi, sono privati e molto costosi, per cui è una politica un pochettino diciamo retrograda se vogliamo, perché le mamme che possono rimanere a casa dal lavoro e diciamo allevare i propri figli devono essere benestanti, altrimenti le mamme lavoratrici sono sicuramente penalizzate e i mesi di maternità sono pochi perché sono solo 4, dopodiché o si rientra al lavoro oppure si rimane in un periodo di congedo non pagato. Grazie Denise, abbiamo scoperto che in questo, quindi per esperienza diretta di Denise, la Svizzera che tanto invidiamo, insomma la Svizzera su questo non è forse tanto da invidiare rispetto a Francia, Germania e paesi scandinavi. Ancora Virgilio da Ravenna, breve telegrafico, prego Virgilio, ci dica. Buongiorno a lei e tutti i suoi ospiti. Ci dica. Se non ricordo male, il governo Prodi aveva fatto un dispositivo di legge per evitare le dimissioni in bianco, il cittadino, il lavoratore si doveva dimettere, doveva ritirare un modulo dall'INPS o dai sindacati, adesso sono un po' vago ma di questo sono certo che comunque aveva, che erano numerate e con la data stampigliata sopra e le stesse dovevano essere utilizzati questi fogli 15 giorni dall'atto del ritiro, questo per evitare quell'odioso sistema delle dimissioni in bianco. E il ministro Sacconi la prima cosa che ha fatto, o tra le prime, ha bellamente cancellato questa norma di legge che era un po' a tutela delle donne, diciamo così. Però è passato tutto in cavalleria. Grazie, buona giornata. Virgilio, allora, quello che lei riferisce è vero, ma fa parte, tanto per chiarire, perché io poi ripeto come questa cosa immediatamente diventi la cosa tra la sinistra e la destra che si picchiano dicendo è colpa tua. La norma abolita da Sacconi ha creato il governo Berlusconi era nel quadro di una lunghissima serie di provvedimenti aboliti o abrogati per diminuire il carico sulle società, nel senso che si prevedeva in quel caso appunto per procedere alle dimissioni esclusivamente di scaricare questi documenti presso l'INPS, quando invece voglio dire i processi sul lavoro, i processi, le cause che ci sono, quelle poche volte che i dipendenti tirano fuori case di questo genere, cioè si rimangiano la lettera che il datore di lavoro gli ha chiesto di dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione e poi pensano di essere forti abbastanza, come mi auguro, per fare causa quando questa lettera viene utilizzata contro di loro, si vede quasi sempre che si tratta di procedure che non vengono assolutamente risolte dall'adozione di modelli burocratici. Quindi io credo che lo spirito del governo, non sta a me dirlo, non sia stato quello di dire ai lavoratori: adesso voi firmate tutte le lettere in bianco perché il governo se ne frega, perché quello è un diritto di legge e il diritto di legge resta e va tutelato di fronte al giudice, non è con i moduli amministrativi e con gli oneri per le imprese maggiori che si risolve il problema. Ma ripeto, sto semplicemente spiegando ciò che disse Sacconi nell'abolizione, poi sta all'ascoltatore a valutare, non a me difendere i punti di vista opposti politici. Chiedo a Stefania, da cui siamo partiti, l'ex marketing manager di Red Bull Italia, dopo aver preso la decisione, dopo aver letto il sostegno e la solidarietà, dopo partecipare a questi dibattiti, in realtà la tua curva professionale di lavoro e come mamma sarà in grado di mettere a frutto tutto questo, e cioè di poter riprendere il tuo percorso professionale ulteriormente arricchito in nuove esperienze con questa idea di non esserti piegata, ma di poter anche partecipare in pubblico a dimostrare che si può, è giusto e soprattutto ed è conveniente, oppure in realtà fare poi la protagonista pubblica di queste vicende si porta al sostegno, porta alla solidarietà, ma poi alla fine rischia di diventare un danno ulteriore? Ma allora, io quando ho deciso di denunciare ciò che mi era successo, avevo anche messo in conto il fatto che nessuno mi avrebbe più chiamato. Amici mi dicevano: non denunciarlo perché poi vedrai che nessuna azienda più ti chiamerà. Diventi una rompiscatole. Diventi una rompiscatole, e devo dire che il rischio c'era, il rischio c'è, ho deciso di correrlo perché secondo me ne valeva la pena. C'è stato interesse da parte di qualche azienda, però io sono, così come la moglie di Paolo che ha chiamato prima da Roma, una donna con un figlio, quindi non è così facile anche per me ricollocarmi. Comunque resto convinta di quello che ho fatto. La risposta, per chi ha voluto capire e sentire, è stata chiara, cioè il rischio esiste. Allora, queste sono, a me piace sottolineare che poi di questi temi noi ci occupiamo anche perché, grazie al fatto che Confindustria oggi è guidata da una donna, grazie al fatto che una donna come questa ha chiamato a fare amministratrice delegata del Sole 24 Ore un'altra donna, un mestiere, quello di fare amministratrice delegata di grandi gruppi editoriali nel nostro paese, è assolutamente monopolio maschile. Insomma, cambiare si può, però è molto tosto, e talvolta i maschi poi si vendicano attribuendo a simpatie, a cose eccetera, le scelte delle donne manager. È molto tosto, come si sa, e si vede anche nei giornali che è molto tosto. Anna Zavart, concludiamo con te. Il vostro portale crescerà oltre Milano, ha obiettivi di risoluzione di problemi concreti o anche di comunicazione pubblica, o si fanno le due cose insieme in realtà? L'ideale è creare sinergie e fare le due cose insieme. Il portale è partito come progetto pilota da Milano, poi dalla regione Lombardia, e grazie anche alla capillarità del gruppo con cui ci siamo associati contiamo di espanderlo in tutta Italia. In realtà, da un lato, noi vorremmo raccogliere donne qualificate e motivate come Stefania e come tante altre, e creare un database di persone che secondo noi è uno spreco anche economico che siano fuori dal mercato del lavoro. Dall'altra, la nostra scommessa è di riuscire a fare formazione anche alle aziende, prendendo casi di best practice e dimostrando che conciliare non solo si può, ma conviene. Ci sono delle ricerche in Germania che dimostrano che programmi di conciliazione hanno un ROI, cioè un ritorno sugli investimenti fatti fino al 30%, e che riducono di un terzo il turnover, quindi la perdita di persone già formate che fuoriescono dalla società, e aumenta chiaramente anche la produttività. E poi questo, diciamo, i riscontri che raccogliamo anche dalle aziende vorremmo portarli anche a livello istituzionale per creare sinergie positive. In Lazio, per esempio, c'è un bando che finanzia la flessibilità delle aziende, dà proprio dei soldi alle aziende. Infatti, che introducono flessibilità. Sarebbe molto bello aiutare le aziende ad accedere a questo bando in Lazio e crearne altre, perché no, in Lombardia, in Piemonte. E come no, e questo sarà magari l'argomento concreto della prossima puntata, con cui continuerò a rompere le scatole sulla questione di politiche pubbliche, di organizzazioni private aziendali più favorevoli al lavoro femminile e alla maternità. A chi mi ha dato del testuale leccapiedi, perché amo citare il fatto che c'è una Confindustria in Italia guidata da una donna e un gruppo editoriale a cui mi si dice donna, non so che dire. Il fatto è questo: evidentemente molti uomini continuano a non sopportare questa faccenda, e questo la dice lunga su quale sia il ritardo culturale di noi maschietti nel nostro paese. Grazie a Stefania Boleto, ad Anna Zavarita e a Chiara Bisconti, grazie regia a Pietro Locorte, Alessandro Marco Tulli, in redazione la Linea Generale Radio. Appuntamento a domani.